come avevo auspicato quando abbiamo annunciato la ripresa del campionato, avevo chiesto che si potesse partire con la Coppa Italia, perché la Coppa Italia saranno tre partite, le due semifinali e la finale, che verranno mandate in onda dalla RAI, e quindi saranno tre partite in chiaro che potremo vedere tutti quanti. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Giocare senza pubblico toglie tantissimo al calcio, sarà un calcio diverso, anzi sicuramente un calcio diverso rispetto a quello di ottobre, novembre, oppure quello di marzo, la continuità di tante partite insieme, le cinque sostituzioni che sono comunque una novità, il fatto di giocare con temperature così alte. Dovremmo essere bravi, capaci di non crearci molti alibi e di cercare di fare il meglio possibile. A giugno-luglio a vedere le partite e a fare le saude allo stadio ne faccio volentieri a meno, e provvedere tra l'altro partite mediocre, perché si verranno partite mediocri. Noi anche sono disposto anche a lasciargli i soldi dell'abbonamento delle partite che salto. Spero che non si fermi il campionato una volta ripartito, ma se dovesse succedere dobbiamo sapere ora cosa succederà, perché saperlo a metà strada, se ci sono playoff o cristallizzazione della classifica, mi sembra un po' un pasticcio che creerebbe polemiche. Sono contento di dirvi che le due semifinali sono state anche anticipate per poter consentire così di avere poi un calendario fitto successivo. La prima è il 12 e il 13, le due semifinali, e poi il 17 la finale di Coppa Italia. Giocare ogni tre giorni, infilando la Coppa Italia sotto il tappeto nella settimana tra il 14 e il 20, perché non c'è più tempo. Buon pomeriggio a tutti, voci Gasperini del Ministro Spadafora, con opinioni dei nostri ascoltatori via WhatsApp. Mandateli, WhatsApp vocali 349-238-6666, venerdì c'è Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Eccomi, ciao. Eccolo. Non hai un po' di emozione a pensare che tra una settimana a quest'ora ci staremo apprestando tutti a vivere Juventus Milan? Sai che è così, smettila. Ciao Pierluigi Pardo. Con questo, rispondiamo a tutti quelli che li abbiamo sentiti anche prima. Sì, e continueremo a sentirli. Però oggi sono molto contento perché facciamo un viaggio dentro al primo club di Serie A che scenderà in campo. Per questo ringrazio tantissimo Roberto D'Aversa, allenatore del Parma. Buongiorno mister. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno, grazie. Ciao, senti, sabato 20 giugno ore 19:30 a Torino-Parma sarete i primi a battezzare questo riavvio di stagione. La prima domanda è la più banale: come procedono i lavori? Procedono che dopo un periodo dove abbiamo fatto degli allenamenti individuali, questa è la terza settimana che lavoriamo con tutta la squadra, e questa settimana coincide con la settimana di scarico, in modo tale che poi riprendiamo con due settimane ancora di carico prima che inizi il campionato. Ci prepariamo a una partita che è quella col Torino, e come ho sentito in alcuni messaggi sicuramente l'intensità e i ritmi non saranno gli stessi, ma è inevitabile, perché dopo due mesi in attività per lo più rinchiusi in casa, sicuramente non si rivedranno le stesse intensità di partite che prima dell'interruzione. E sia per la condizione fisica, sia soprattutto anche per la situazione ambientale, dove giocare con uno stato vuoto e ovviamente ancora la partita con la spalla in casa è totalmente diverso. Io ho diverse curiosità, ma ti lascio le domande di Pierluigi e di Giovanni. Pier. Sì, il professor Fagiano, oltre poi abbiamo cominciato a parlare di spiaggia del Salento, che capisci che è un tema sempre del nostro cuore, però ci raccontava in radio dell'atteggiamento positivo dei giocatori. Voi siete stati fra i primi a cominciare, essere stata una delle società sicuramente all'avanguardia da questo punto di vista, anche, anche in cose semplici, in cose banali, mi raccontava dei pafti monouso per il rispetto di tutte le norme sanitarie che avete preso, ovviamente il centro sportivo vi favorisce dal punto di vista del ritiro rispetto ad altri club. Ci racconti un po' l'atteggiamento dei giocatori, cioè c'è stato l'entusiasmo che sembra esserci stato, insomma, nel ricominciare la stagione, anche se qualche disagio, ovviamente molta prudenza ci devono essere. Sì, l'entusiasmo di riprendere c'è stato sicuramente da parte di tutti. È chiaro che noi, la società, ha operato in modo tale da tenere in considerazione il protocollo di cui avevamo disposto inizialmente. E devo dire che meno male che poi è stato cambiato, perché veramente poi ci possono essere difficoltà. È vero che noi abbiamo un centro sportivo, però la società, il team manager sono stati veramente bravi a organizzare, sfruttando una struttura lì nel vicinato, perché portare il ritiro in camere singole e quasi 50 persone, solo il centro sportivo non bastava. Devo dire che hanno lavorato. E infatti i primi due giorni ho chiesto ai ragazzi di rimanere in ritiro, perché comunque avevano lavorato, avevano messo a disposizione una struttura per poter seguire il protocollo. Dopodiché, nel momento in cui il protocollo è stato cambiato, facevo fatica a portare i ragazzi comunque in ritiro, anche perché saremmo stati gli unici. Ma su questo punto di vista, diciamo che i primi giorni abbiamo approfittato, perché veramente dopo un po' di tempo, e nel guardare un po' l'alimentazione, fare le visite e tutto questo, quindi ci è servito più che altro per fare un reset per ripartire. Però devo dire che da parte dei miei ragazzi, ma su questo punto di vista concordo con il direttore, penso di essere fortunato, perché ho a disposizione veramente un gruppo di ragazzi, oltre ad avere dei valori tecnici, hanno un valore morale che secondo me ci ha portato in questi anni a fare dei risultati importanti. Sì, Giovanni. Ma mi piacerebbe capire da Roberto D'Aversa come si immagina questa ripartenza. Ha detto lui prima, ci saranno ritmi più bassi, ci sarà una difficoltà a vedere le partite del calcio di prima, però mi chiedo se lui se lo aspetti come una sorta di sparo, pronti via si riparte, e questo significa ad esempio dover ribaltare certe gerarchie, magari anche 6-7 punti in classifica, oppure se un po' la tedesca andremo avanti, che chi deve vincere vince e chi deve perdere perdere, nel senso che i valori saranno questi. Ma è chiaro che giocando nelle partite così ravvicinate, avere una rosa lunga ti porta dei vantaggi, perché non si tratta di un trittico così settimanale per poi riprendere. Caduto Roberto D'Aversa, ma andiamo a recuperarlo. Chiacchierata era molto interessante, tra l'altro si faceva riferimento ai ritiri. Più tardi parleremo anche della situazione dell'NBA, come sapete. Lì si riprende il 31 e i giocatori saranno praticamente in ritiro permanente fino alla metà di ottobre, almeno quelli che giocheranno le finali. Sarà interessante capire anche, ragazzi, come ha lavorato, come si lavora in questo momento sulla testa dei giocatori. Ecco che abbiamo recuperato Roberto D'Aversa. Sì, prego, scusate, mister. Ma sono in viaggio ed è caduta lì. Dicevo, è chiaro che avere una rosa ampia ti può portare dei vantaggi, perché non si parla solo di una settimana dove ci possono essere tre partite ravvicinate, ma si parla di un periodo abbastanza lungo. Sicuramente dipende molto anche dalla possibilità di quanti giocatori si possono cambiare tra una parte e l'altra. È chiaro che molto dipende da questo, molto dipende anche dalla condizione climatica, perché si giocherà con il caldo, pur giocando in orari notturni, comunque le condizioni climatiche sono diverse. E c'è da considerare che è vero, sì, che magari stiamo preparando la ripresa del campionato con un mese di preparazione, ma è pur vero che due mesi di inattività rinchiusi dentro casa non è mai successo. Quindi a livello muscolare, a livello osseo, è una situazione totalmente diversa rispetto a una ripresa di un campionato normale, quando magari si sta fermi al massimo un mese, ma sempre facendo attività che possa essere tennis, che possa essere beach volley, nuoto, qualsiasi cosa. Qui la situazione è ben diversa, e lo dimostrano il fatto che nel momento in cui adesso negli allenamenti, pur stando attenti, si cerca di mettere dentro il pallone e aumentare l'intensità, e gli infortuni sono all'ordine del giorno. Sì, questo è un altro grande tema. C'è Klopp che dice che comunque il tempo di preparazione che loro hanno a disposizione, ma che in generale voi avete a disposizione, è sufficiente per rimettere insieme una squadra in buone condizioni, è così? Sì, è chiaro che loro sono abituati nel giocare più frequentemente rispetto a noi. Ripeto, poi molto dipende dal numero dei giocatori. Ad oggi Mi preoccupa il fatto che io in questo momento sto dando 15 giocatori, affrontare 13 partite giocando ogni 3 giorni con 15 giocatori è impensabile, quindi mi auguro di recuperare il tutto il più presto possibile. Molto dipende, ripeto, dal turnover che si può stare. Poi è chiaro che, a differenza del passato, in questo momento bisogna considerare che chi gioca la condizione la prende giocando, ed è molto importante allenare quelli che non giocano, perché sarà difficile tenere in condizione quelli che non giocano. Sì, sì, questo è chiaro. Ma tu se posso fare una domanda, Roberto, cioè, ma tu come ti immagini questo vantaggio della rosa più ampia? Perché in tanti sono portati a dire fai 5 cambi per partita, di fatto è mezza squadra, lo fai dopo 60 minuti è fatta. Io invece ho l'impressione, ad esempio, che un grande vantaggio sarà, ad esempio, per chi ha veramente 20-22 titolari, poter decidere a tavolino chi una settimana non va nemmeno a fare una trasferta, si allena in maniera un po' più normale. Esatto, è una programmazione che si fa quando si più hanno che le 5 partite. Cambi. Sì, no, allora, i 5 cambi magari è una possibilità in più, soprattutto per noi allenatori, perché veramente la cosa brutta di questo ruolo è quando magari devi decidere quelli che non giocano, non farli entrare, oppure i giocatori di andare in tribuna. Quindi mi auguro che oltre ai 5 cambi si possa cambiare anche la possibilità di portare tutti in panchina. Detto questo, mi riferivo principalmente al problema delle liste, no? Perché comunque poi bisogna tenere fuori dei giocatori, ed è un peccato perché comunque loro, se allenano durante l'anno, meriterebbero tutti di avere una possibilità. Ma proprio la cosa più importante è quella che diceva lei, è proprio su una programmazione. Nel momento in cui ci sono 3 partite in una settimana, sia nella seconda partita che nella terza, un allenatore, perlomeno io, faccio sempre una riunione con tutti quanti, con il mio staff, ma soprattutto anche con i dottori e con i fisioterapisti, per stabilire chi in quel momento è più prestativo, e programmarlo già dall'inizio è importante, perché a seconda dell'avversario, a seconda alcune situazioni, uno lo può programmare già dall'inizio. Ripeto, ma questo chi ha la possibilità di farlo? È chiaro che lì dove non hai la possibilità di programmarlo sin dall'inizio, perché numericamente non hai una rosa ampia, purtroppo sei costretto a farlo mano a mano, a seconda dei carichi, a seconda degli infortuni, a seconda di tante situazioni. Sì, c'è un ascoltatore che scrive: esattamente, per come vedo le partite di Bundesliga, i 5 cambi non sortiscono grandi cambiamenti nel corso del match. Beh, però è una, questa della pianificazione e la lettura della, sì, risparmiare magari a volte un 20-30 minuti a qualche giocatore è importante a livello preventivo di infortuni, ecco, non tanto magari per la prestazione, per la singola partita, ma per cercare, ripeto, di non far sì che i carichi ti portano poi a delle conseguenze più brutte, che sono quelle degli infortuni. Sì, certo. Ma infatti io volevo capire, sintetizzando tutto questo ragionamento sui 5 cambi, se condivideva un po' la linea Liberani sul fatto che comunque questo può essere un vantaggio, anche se nasce sicuramente da un'esigenza di prevenzione degli infortuni, però se può essere un vantaggio per le squadre con una rosa più profonda, cioè se in quel suo, insomma, avresti fatto 3 cambi. No, guardi, credo che sia importante, sì, che è un vantaggio, perché comunque hai la possibilità di cambiare togliendo il portiere e metà squadra, quindi mi auguro che questo possa portare anche dei benefici a livello di bellezza di una singola partita, perché comunque è importante, no? Cioè, nel senso, c'è la possibilità, pur sfruttando sempre 3 tempistiche per fare i cambi, in modo tale che non cambia, sennò magari si può perdere tempo, può diventare una tattica nel momento in cui uno è in vantaggio. Credo che può portare dei vantaggi sicuramente, sia a livello di prevenzione di infortuni, ma soprattutto anche nell'ambito della partita stessa, e per noi allenatori penso che sia un vantaggio. Poi è chiaro, ripeto, lì dove hai tutta la rosa a disposizione è un vantaggio, lì dove purtroppo ti puoi ritrovare con 14-15 giocatori il vantaggio è più per gli altri. Certo, questo è chiaro. Ero curioso di sapere come avevi trovato i giocatori alla ripresa, anche dal punto di vista psicologico, quali atteggiamenti, paure, come avete lavorato sulla testa dei giocatori, come state lavorando sulla testa dei giocatori? Ma io, allora, principalmente sotto l'aspetto fisico, devo dire che mi aspettavo molto peggio. Come abbiamo fatto i test, c'è stato qualcuno chiaramente che si è presentato in condizioni strepitose, parlo in maniera positiva, altro o meno, ma era inevitabile. È chiaro che questo dipendeva molto dalla possibilità che uno aveva di lavorare a casa, no? In base anche a delle strutture e quant'altro, oppure nel paese in cui magari c'era più libertà o c'erano più restrizioni. Dal punto di vista mentale è chiaro che in questo momento, in questo periodo, non ho forzato situazioni particolari, ma perché è inevitabile, perché in questo momento credo che il riabituarsi alla quotidianità, la cosa normale, deve venire da solo, quindi sotto l'aspetto motivazionale e quant'altro ho preferito lasciarli ancora un po' liberi, tra virgolette, no? Non mi sono messo a martellare come mi è solito. È chiaro che da lunedì ritornerò quello di sempre, perché dopo mancano due settimane, quindi è giusto che poi si riprepara il tutto, però a livello mentale è chiaro che un po' di timore e quant'altro, specialmente quando poi magari fai test, quando magari hai saputo che magari puoi aver avuto il Covid, tante situazioni che chiaramente è normale, è fisiologico che ci sia qualche restrizione a livello mentale, però credo che per quanto riparta il campionato poi sia tutto a posto. Roberto, fa bene Carlo a spingere sì. A fondo da lunedì, anche perché ha una squadra che, per come possiamo ragionare noi da osservatori esterni, molto rapida, leggera, veloce, Gervinho, Inglese, insomma i giocatori che abbiamo imparato ad apprezzare in questa stagione, se va minimamente in condizione all'inizio rischia di poter fare la differenza proprio per questo. Cioè, ad esempio, mi incuriosisce sapere in che condizione è arrivato e come sta Gervinho. Gervinho, come voi tutti sapete, è dovuto stare due settimane in quarantena, no? Poiché aveva viaggiato con Kessie, quindi nel momento in cui è arrivato è stato in quarantena. Si sta allenando da 4-5 giorni. Lui ha un DNA particolare, cioè nel senso, a parte che lui quando si trova a casa è sempre un tipo che si allena, no? A differenza di quello magari si può immaginare di Gervinho, è veramente un professionista. Ha delle doti innate. È chiaro che in questo momento devo stare attento sui carichi di lavoro rispetto agli altri. Oggi abbiamo fatto la partita, è chiaro, non 10 contro 10 perché numericamente non ci arrivavo, però rispetto agli altri gli ho tolto qualcosa, perché come carichi di lavoro lo porterò più avanti alla pari degli altri, però ha delle doti innate che mi permette anche a volte di differenziarlo nel lavoro, perché ripeto, ha delle qualità enormi. Roberto Inglese sta lavorando molto bene, sta migliorando molto, rientra da un infortunio grave, mi auguro che possa fare la visita dove gli diano la idoneità e di averla a disposizione già dalla prima di campionato, perché veramente è un giocatore che in due anni a Parma è stato veramente molto sfortunato. Mi auguro che questa sospensione, questo possa servire più che altro a lui a cercare di fare un numero di partite, perché comunque è un ragazzo che si sente responsabile di tante situazioni, quindi mi immagino la voglia che ha di dimostrare l'investimento che ha fatto la società, perché è veramente un giocatore particolare, cioè nel senso veramente un giocatore, un lottatore, e non è facile per lui da 3-4 mesi lavorare solo ogni giorno da solo, e solo chi ci è passato con dei gravi infortuni può capire che momento sta vivendo. Mi auguro che possa rientrare presto per lui, ma soprattutto anche per la squadra. Certo. Ci sarà un calcio più tecnico, meno fisico, meno caratteriale, quello che abbiamo visto in Bundesliga, e lo ricordiamo sempre, l'obiettivo, fra l'altro adesso se ne parla apertamente, l'obiettivo sì. Deve essere riportare il pubblico allo stadio, lo dico tutti i giorni perché sia chiaro, quello è l'obiettivo, il calcio senza tifosi allo stadio secondo me ha poco senso, quindi questa è una fase che speriamo duri il meno possibile, però guardando le partite in Germania ci rendiamo conto che magari certe asprezze, no? Certi eccessi agonistici insomma vengono un po' meno. Come te lo immagini tecnicamente la partita? È chiaro che a livello di ritmi, considerando che si giocherà ogni tre giorni, e principalmente si cercherà magari di una gestione tecnica della palla, ovvero di preservare delle energie. È chiaro che e le partite che stiamo avendo in Bundesliga, perché a volte è il pubblico stesso che ti porta a fare qualcosa in più a livello caratteriale, a livello fisico, ti trascina, è normale, e questo però non ce l'ha, mi auguro che possa cambiare qualcosa, ma perché veramente giocare senza pubblico è una parte diversa. Ripeto, ho ancora in mente la partita con la Spal, è uno sport totalmente diverso, però è così per tutti, e quindi ci auguriamo che il prima possibile si possa risolvere, magari di rivedere persone allo stadio, perché comunque se c'è la volontà di riaprire i teatri, se c'è la volontà di riaprire i locali e quant'altro, in sicurezza penso che si possa anche dare la possibilità di riaprire il pubblico allo stadio. Mi auguro il più velocemente possibile, però dopo su questi aspetti ci sono persone, scienziati e dottori che possono dire la loro. Noi possiamo solo che stare alle loro decisioni. Roberto, un grande tema è quello degli infortuni. In questi giorni, in questo periodo, a tutti noi tre, almeno che siamo qui, è capitato molte volte di dire come il rimanere fermi così a lungo per i professionisti, per un giocatore professionista che quindi usa il corpo come strumento di lavoro, è un danno ancora maggiore che non forse quello di riprendere in una maniera come questa. Sì, no, il fatto di essere rimasti rinchiusi in casa 2 mesi è deleterio, sia a livello muscolare ma anche e soprattutto a livello osseo. Quindi, ripeto, nonostante magari ci si sta facendo molta attenzione, nonostante per 2 settimane hanno fatto gli allenamenti individuali, purtroppo nelle settimane in cui poi al primo giorno magari cerchi di aumentare l'intensità, perché comunque non puoi arrivare a giocare un campionato senza aver portato i ragazzi ad allenarsi in maniera intensa, perché sennò gli infortuni sarebbero sicuramente maggiori. Qualche infortunio l'abbiamo avuto, è inevitabile, ma credo come noi in tutte le squadre, senza entrare in casa altrui, però è normale. Nel momento in cui sei rimasto fermo 2 mesi e ripartire con intensità, nel momento in cui li riporta all'intensità massimale, ci sta che qualche problema possa venire fuori. Sì, come dicevamo Giovanni l'altro giorno, è un rischio. È molto importante in questo momento curare l'alimentazione, il recupero, tante situazioni che magari ti portano poi a limitarli, perché di sicuro ci saranno. Rivedremo Kulusevski? Kulusevski si è presentato veramente molto, molto bene. Lui ha finito... Faccio una domanda brutale, era lui che pensavo, perché siccome in un evento di eSports con la Lega di Serie A e con FIFA l'ho visto che stava in Svezia e mi raccontava che lui si poteva allenare almeno nella prima parte. Pensavi a lui quando dicevi quelli che si sono presentati. Lui, Kurtic, ci sono stati diversi giocatori, anche Bruno Alves in ottime condizioni, ci sono stati alcuni giocatori che veramente sono presentati nei test. Ha fatto 2 test in Bognoni dell'HIT, è come se non avessero smesso per niente. È chiaro che lui veniva da un problemino e lì si allenava 2 volte al giorno, quindi abbiamo preferito che rimanesse lì a lavorare 2 volte al giorno. È quel giocatore che magari non vede l'ora di iniziare più degli altri, perché aveva avuto un problema fisico e quindi gli aveva compromesso un po' il finale di stagione, intendo prima dell'interruzione. E sicuramente vorrà fare queste 13 partite e dimostrare che è un giocatore che vale l'investimento che ha fatto la Juventus. Ma ce l'ha in campo il 1 luglio a Verona? Perché poi è uno degli altri grandi temi, insieme agli infortuni, a quanto correranno tutti in generale i calciatori. C'è questa cosa dei calciatori che sanno già di essere di un'altra squadra o vanno in scadenza di contratto, e Kulusevski è uno dei giocatori simbolo, insomma, di questa gestione che andrà fatta. Io penso che 99 giocatori su 100 nel mercato di gennaio avrebbe chiesto di andare alla Juventus. Credo che questo ragazzo abbia delle qualità importanti come giocatore, ma ha delle qualità importanti anche come ragazzo, perché non c'entra niente, pur essendo un 2000, è un ragazzo veramente molto maturo e responsabile. È chiaro che questa regola penso che non si possa, perché... Oltre noi ci sono tantissime squadre che hanno dei giocatori in prestito, a prescindere dai giocatori in scadenza, ma dei prestiti, cioè non possono ritornare nelle loro squadre, perché sennò significherebbe non voler finire il campionato. Questa è una decisione che andrà presa a tutela un po' di tutte quelle società che hanno dei giocatori in prestito, perché ci sono alcune squadre che hanno tutti aspetti di poterlo usare fino ad agosto, insomma. Ma io mi auguro di poterlo utilizzare fino alla fine del campionato, ma come è giusto che sia, perché quello che è successo è una cosa, è una pandemia che ha trasformato tantissime cose, quindi è chiaro che poi bisogna ragionare tutti per il bene di tutti e non ragionare sulle situazioni. Su particolarismi. Ringrazio davvero Roberto D'Aversa, che è venuto di nuovo alla linea, ma non stiamo a ridisturbarlo di nuovo. Mi sembra che abbia fatto un quadro molto preciso dello stato dell'arte, no? Viaggio all'interno di una squadra che sta riprendendo. Ragazzi, io sono preoccupato per 2 cose ancora, no? Una è questa della sistemazione legislativa della contrattualistica, E l'altra è il fatto che l'altro giorno Giovanni Gravina ci diceva: beh, presenteremo il protocollo per la storia della quarantena, eccetera, eccetera, prima di cominciare, aspettando che venga modificato, cosa che non accade al momento. Beh, io credo che si debba dare tempo perché le cose maturino. Ieri c'è stato questo incontro tra Gravina e il ministro della Salute Speranza. E il senso è che in questo momento il protocollo non cambia, quindi non cambia neanche la quarantena obbligatoria, però la proposta è sul tavolo, è stata mandata dalla Federcalcio, è all'attenzione del governo, del comitato tecnico scientifico. C'è una settimana prima di arrivare alle semifinali e qualche giorno in più prima di arrivare all'avvio del campionato, alla fase 2 del campionato. Ecco, io credo che in questo momento, se qualcuno lavora per mettere in sicurezza il finale della stagione, debba farlo a fari spenti e sapendo rispettare modi e soprattutto i tempi, e magari tra qualche giorno parliamo di qualcosa di diverso. Sì, intanto... io credo che tra Gravina e Speranza ci sia stima reciproca e ci sia stata sempre un'interlocuzione veramente, veramente costruttiva, al di là del fatto che poi in alcuni momenti ovviamente c'è stata anche una contrapposizione, almeno apparente. Ma in realtà, secondo me, non è così, nel senso che stiamo parlando di persone che, da punti di vista che sono oggettivamente diversi, con responsabilità e interessi diversi, però hanno sempre tenuto la testa sulle spalle nell'idea di fare quello che è possibile fare. Credo che ci sarà molta, molta attenzione da questo punto di vista, credo che ci sarà molto pugno duro verso per prevenire qualsiasi episodio da furbetti, tanto per essere molto chiari, che sarebbe la cosa più grave in assoluto, no? Giocare tra virgolette con le positività, cose di questo tipo. Ci vuole grande trasparenza, siamo tutti sulla stessa barca. Credo che il protocollo dovrà essere ovviamente adattato a quelle che sono le esigenze, servirà un pizzico di fortuna, però insomma mi sta piacendo questa seconda fase, te lo dico sinceramente, da parte di tutti, da parte della politica, da parte della politica sportiva. Ci si sta provando, come succede in Inghilterra, in Spagna, in Germania. Ci sta provando anche a riportare la gente allo stadio, che è la cosa più importante di tutte. E poi ogni giorno guardiamo quella curva, vediamo se ci sono dei cluster, se ci sono delle situazioni, non molliamo le precauzioni, che sono importantissime anche nella vita quotidiana per le persone che vanno a lavorare in ufficio, che salgono sull'autobus, e piano piano ci riprendiamo la nostra vita. È così che si deve fare. Sì, magari e poi piano ci riprenderemo piano pure un giorno gli stadi. Da baciarci dopo un gol senza mascherina. No, intanto sarebbe già qualcosa riprendere i nostri stadi, anche con ovviamente con una normativa, una regolamentazione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Ciao Pier, ci sentiamo lunedì. Ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo lunedì, anche perché Giovanni, nel caso di ricordarlo, tutti convocati weekend, torna. Torna domenica 14, quindi abbiamo ancora una domenica di riposo, una domenica di ferie forzate, ma da domenica 14, col tradizionale orario dalle 17 alle 19, torniamo, e quest'estate abbiamo veramente una tonnellata di cose da raccontare, perché non dobbiamo dimenticare che partono anche i motori, che ad agosto ci saranno le coppe europee, che riparte la NBA e credo che adesso avremo modo di parlarne. Sì. Insomma, abbiamo un'estate che davvero per gli appassionati di sport è un'estate piena. Ultimo respiro prima di immergerci nello sport anche la domenica, e sinceramente tutti noi non ne vediamo l'ora. Ci fermiamo per la borsa e poi, come abbiamo fatto un viaggio nella serie che sta riprendendo, viaggio negli Stati Uniti, dove ci sono anche lì un sacco di temi che non sono solo quelli legati alla ripresa dell'NBA da affrontare. Sono riuscito a vedere neanche una partita del campionato tedesco, non sono riuscito, non mi piaceva, non so cosa farò con quello italiano. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Convocati. James goes inside with authority, and the Lakers have their first lead of the game. Harden with a long. James Harden finding the range. Antetokounmpo spins, gets inside and finishes. Wow. Sì, ci voleva grande fantasia, non parola a caso, per aprire il 31 luglio il più grande Luna Park sportivo della storia del mondo, credo. Cioè quello, in questo caso quello dell'NBA. 22 squadre, restano fuori le 8 che comunque non avevano possibilità di qualificarsi per i playoff. Mega concentramento a Disney World in Florida, e da lì fino alla metà di ottobre si giocherà quel che resta della stagione NBA. Simone Sandri, collegato da New York. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Ciao. Voti favorevoli 29 contro 1. Portland ha votato contro questa ripresa. Perché? Sì, perché loro innanzitutto volevano 20 squadre invece di 22, poi hanno accettato l'idea delle 22 squadre. Il problema adesso è il voto dell'associazione giocatori, che sarà oggi, che sembra scontato, ma ci sono diversi dettagli che devono essere smussati, per esempio la presenza delle famiglie, se si può uscire da questa bubble per poi rientrare, e c'è anche una questione del quale in questo momento se ne parla, che potrebbe prevedere una sorta di reassessment magari alla fine delle finali all'inizio delle finali di conference, perché se il virus fosse tra virgolette sparito, avrebbe senso continuare a giocare per esempio le finali NBA in una bubble, quando magari il virus è a livelli a ottobre o a fine settembre, quando magari il virus è... Questi sono tutti i dettagli che devono essere decisi, e non ultimo quello delle date dell'inizio della prossima stagione. Questo è un dettaglio molto importante per l'associazione giocatori, che non è assolutamente d'accordo con l'idea di ricominciare il primo di dicembre così presto, per cui l'associazione giocatori sta puntando a spingere la data dell'inizio della prossima stagione per Natale, per cui ci sono ancora dei dettagli da smussare, comunque abbastanza rilevanti dal punto di vista pratico. Si ricomincerà, come hai detto tu, il 31 luglio Orlando. Ci sono vari paralleli, Giovanni, che si possono fare con la situazione italiana, che è quella del calcio. Ad esempio qui è stato fatto un punto di principio d'onore sul evitare dei ritiri di 2 settimane all'inizio della ripresa. In America a oggi i giocatori dovrebbero stare, è chiaro che anche loro stanno combattendo, dovrebbero stare confinati lì, un posto meraviglioso, quello che vuoi, con tutti i comfort possibili, però dal 31 di luglio, finale gara 7 prevista di finale 12 di ottobre, al momento è prevista la presenza all'interno di questa bubble di un familiare, ma con l'inizio dei playoff, quindi dopo che sarà stata esaurita la stagione regolare. È chiaro, Giovanni, che ai giocatori si chiede un sacrificio enorme. Ed è chiaro che la grande differenza è che nella NBA decide uno, fondamentalmente, e gli altri poi, mettendoci qualche distinguo, obbediscono. Nel calcio italiano, ma non solo italiano, vige un procedimento completamente diverso, ma è così, non l'abbiamo scoperto in questo momento, e quindi io credo che ad esempio il confronto su 3 mesi e mezzo di ritiro senza familiari sarà un confronto che immagino partorirà alla fine un punto d'incontro, un punto di caduta, una sorta di compromesso. Molto più interessante invece la storia della data della prossima stagione, alla quale in realtà guardiamo tutti, anche quelli magari meno interessati a quando ripartirà la stagione 2021 della NBA, ma la ricaduta sui tornei preolimpici e sui tornei olimpici di Tokyo rischia di essere devastante, perché ad esempio come noi sperava di recuperare gli italiani. Sì, questo è un discorso che si estenderà ovviamente a non solo ai giocatori americani, ma a tutte le nazionali. La ricaduta sulle Olimpiadi, ne avevamo parlato anche con Marco Berinelli, ti ricordi Simone, sarà enorme. È vero, e in maniera brutale e onesta devo dire che l'associazione dei giocatori interessa a un certo punto questo punto, per cui i leader dell'associazione dei giocatori sono i giocatori, comunque sono LeBron James e Chris Paul, il punto dei preolimpici interessa fino a un certo punto, loro vogliono riuscire a finire le finali prima dell'inizio delle Olimpiadi, in modo da dare comunque il messaggio che, volendo, la nazionale americana è potenzialmente presente alle Olimpiadi, per cui l'idea che ci si debba essere tenuto in considerazione il calendario FIBA all'associazione giocatori interessa fino a un certo punto, al contrario all'NBA invece interessa molto di più, ed è questo il compromesso che l'associazione giocatori e l'NBA devono cercare di trovare. È anche vero che la data del 12 ottobre è una data per adesso fittizia, perché per esempio se non ci saranno le quattro partite di distacco tra l'ottava e la nona, per cui non ci sarà la necessità di un playoff per entrare nei playoff, per entrare nell'ottava posizione, le date significa che i playoff inizieranno prima, per cui c'è una possibilità che finisca una settimana prima, non che cambi molto con una settimana prima, però il contesto è anche quello. E come ho detto, il fatto che il calendario NBA abbia un certo riscontro nel confronto del calendario FIBA all'associazione giocatori interessa fino a un certo punto. Senti, ma l'America nel complesso, in ben altre faccende affaccendata, l'opinione pubblica come prende questa ripresa dell'attività dell'NBA? Credo come da un punto di vista delle relazioni razziali come una ottima notizia, questo senza dubbio, perché hanno bisogno di c'è bisogno negli Stati Uniti di messaggi positivi di quello che sta succedendo. È una sorta, nel momento in cui la situazione sembra migliorare, è arrivata questa bomba sociale, se vogliamo definirla tale, e sicuramente lo sport può aiutare, anche perché sono, come sappiamo bene, giocatori NBA sono in prima fila nella lotta al razzismo da tanto, e lo possono dare un loro esempio, e la cosiddetta piattaforma di cui parlano spesso, con l'NBA ai margini ha una valenza, con l'NBA invece in full force ha una valenza diversa, per cui è sicuramente importante il poter ricominciare e anche dare un messaggio un po' a tutto il resto degli Stati Uniti che l'America può ricominciare a vivere. Sicuro. E altro punto, poi approfondiamo di nuovo discorsi dopo il traffico, quello dei di stretta attualità anche qui, quello dei protocolli. In questo momento, per come è prevista la ripresa, la positività di un giocatore come viene trattata? Bravo, quello dei protocolli è uno dei grandi problemi anche dell'accordo con l'associazione giocatori, e non solo l'associazione giocatori, l'associazione allenatori, anche uno dei protocolli sarebbe che le persone a rischio, cioè quelli che hanno 62-65 anni, che hanno più di 62-65, debbano essere protetti. Cioè, Adam Silver ieri ha detto che c'è la possibilità che allenatori come Popovic o come Mike D'Antoni possano non allenare dalla panchina, che sarebbe una cosa, avrebbe una valenza importantissima nei confronti proprio del gioco. L'associazione allenatori questa cosa non sembra poterla accettare, per cui un'altra delle negoziazioni sarà questa, quello dei protocolli, del importantissimo il protocollo che hai detto tu, perché c'è stato un periodo in cui l'NBA pensava che una singola positività avrebbe potuto fermare il ritorno. Non è più così, l'idea della singola positività verrebbe gestita in un certo modo, cioè il giocatore verrebbe allontanato, ci sarebbe la quarantena. Il problema che non è ancora stato discusso è: se invece di esserci una singola positività ci fossero 5 positività in una squadra, cosa succede? Si ferma solo quella squadra, si ferma tutta la stagione? E ovviamente sono discorsi abbastanza complicati che Silver deve però mettere certo sul piatto. Stando così le cose, la positività di un giocatore porterebbe alla quarantena, peraltro mi sembra di aver letto di 7 giorni, del singolo giocatore, mentre gli altri continuerebbero ad allenarsi, a giocare. E in più ci sarebbe scusa se interrompo, in più l'idea di Silver sarebbe quella di fare di fare i test, se non tutti i giorni, ogni due giorni, per cui per cercare di prevenire, ovviamente. Dicevi, Giovanni? No, l'altra grande novità è che ci sta spiegando Simone che ne sta discutendo l'NBA, non è che ne stanno discutendo. Secondo me qui il modello europeo è un modello coerente e corretto, cioè ci deve essere un'autorità superiore, ma mi pare di aver capito che negli Stati Uniti è un dibattito interno all'associazione, come fare, che regole scrivere, come gestire le quarantene o eventualmente l'esclusione delle persone oltre i 65 anni, e anche questa è una differenza non da poco, mi pare di aver capito. Sì, sicuramente, infatti uno dei problemi è anche il messaggio che vuole dare l'NBA. Se la CDC, cioè l'Associazione Sanitaria Americana, dice che le persone oltre i 65 anni in un momento come questo non dovrebbero tornare al lavoro, ha senso per la NBA fare invece far passare il messaggio che un allenatore di 71 anni come Popovic sia in panchina. Sì, da un certo punto di vista, no, da un punto di vista se uno vuole seguire le regole, le regole, diciamo, delle altre aziende. È un problema molto complicato, perché non si può certo dire che non avere un allenatore come Popovic, come Mike D'Antoni, sia una cosa normale per una squadra. Non lo sarebbe, e c'è questo terrore che hanno i giocatori e l'NBA in generale, che ci sia questo asterisco sulla sì. vittoria, sulla squadra che possa vincere la NBA, certo, quest'anno. Simone, rimani con noi, ci prendiamo un attimo per il traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Hey Federico, I'm a really big fan. Really enjoyed watching you play at Manchester United. I'm so glad you're doing so well at Novara. I wish you all the best. I'm a Novara fan, so let's go. Simone Sandri, me la spieghi questa? Questa non me l'aspettavo. Questa è un Rodman Petagna pre-Rodman Petagna. Questo è il 2017, però la differenza è che questa era uno Steve Nash che fa i complimenti a Federico Macheda, che era uno dei suoi giocatori preferiti quando giocava in Premier e che poi è andato a giocare nel Novara. E Steve, diciamo, è un simpatizzante del Novara. Ma perché è tuo amico, questo è bene dirlo, quel video l'hai fatto tu, e Steve Nash è tuo amico. No, per Rodman Petagna ha fatto molto rumore quella storia lì, da queste parti. Quel video l'hanno visto tutti. Qualche problema così? Simone, mi senti? Qualche problema di collegamento via Skype con gli Stati Uniti? L'hai visto anche tu, no, Giovanni, quel video di Pepe? Sì, l'ho visto e ho capito che la figlia di Rodman è brava a giocare a calcio, se non ho capito male, no? No, hai capito bene, così come sei capito anche... Tu capiti anche i meccanismi attraverso cui sono arrivati arrivato quel video. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo intervenire nella vostra trasmissione per farvi questa domanda. Ma con la ripresa del campionato che ci sarà il 20 giugno, i giocatori in scadenza di contratto o in scadenza di prestito al 30 giugno, come normalmente statuito dalle carte federali, in che posizione si troveranno? Chi gli pagherà lo stipendio dal 1 luglio? Se succede un infortunio, chi risponderà? Loro sono obbligati a partecipare in assenza di contratto, oppure la federazione ha fatto una deroga prolungando i contratti in essere? Varrebbe la seconda che ha detto Giovanni, solo che non ha ancora... Ci stanno lavorando. È una cosa che stanno definendo, detto che poi, siccome prevale il diritto giuslavoristico, ogni accordo dovrà essere singolo, cioè non si può fare un accordo che copra 20 squadre e 500 giocatori, in realtà il numero è un po' più basso, sono intorno ai 120-130 quelli interessati da questo passaggio del 30 giugno. Prima Roberto D'Aversa, che ha in squadra Kulusevski, che tecnicamente dal 1 luglio è un giocatore della Juventus, ci ha detto che lui conta di averlo fino alla fine di questa stagione, quindi diciamo fino al 2 agosto, e di poterlo far giocare. Io credo che alla fine sarà così nel 99% dei casi, perché poi è un interesse di tutto il sistema e degli stessi calciatori, compreso quelli che ad esempio vanno in scadenza di contratto, non perdere questi 2 mesi di stagione. Però chiaramente è uno dei passaggi delicati. L'idea, Cappello, della FIFA è che un calciatore resti nella squadra attuale, quindi quella con cui è iniziato la stagione, fino al termine della stagione stessa, e da questa venga pagato, e poi dopo si proceda dal giorno successivo al passaggio nella nuova squadra. Questa disposizione sono necessarie disposizioni di attuazione a questo principio generale della FIFA, stato per stato, cosa che non è ancora stata fatta e che deve essere risolta, ci auguriamo tutti, prima della prima palla al centro della ripresa della stagione. Cioè, di nuovo Simone Sandri, cui volevo chiedere ancora una cosa che riguarda il momento sociale degli Stati Uniti, cioè il coinvolgimento massiccio dell'intero mondo dello sport a quanto sta succedendo sul caso Floyd. Simone, la riflessione che facevamo nei giorni scorsi, ma che fanno un po' tutti, ieri leggevo ad esempio un meraviglioso pezzo di Emanuele Audisio su Repubblica, è la totale adesione del mondo dello sport intero a quanto sta succedendo, il che è abbastanza un inedito, perché spesso insomma gli sportivi, da Michael Jordan in giù, si trinceravano dietro le loro posizioni di stallo su grandi temi sociali e politici, Simone. Sì, assolutamente. Abbiamo visto proprio delle prese di posizione a 360 gradi, e non solo nella comunità nera, ma anzi con dottori bianchi che sono assolutamente in prima linea rispetto a questa bomba sociale, come l'avevo definita prima, con l'aiuto anche delle leghe stesse, la NBA in prima fila, ma anche l'NFL, Major League Baseball, NHL, per cui è visto come un problema di tutti, e mai come in questo caso si vedono che sono gli atleti in prima linea a cercare di dare l'esempio e cercare di fare... di far riflettere gli americani in questa che definiscono una scomoda conversazione che c'è bisogno di fare negli Stati Uniti. Di nuovo qualche problema al telefono, ma di questi temi ho l'impressione che torneremo a parlarne ampiamente con Simone Sandri, perché purtroppo non è finita qui. Raffaele da Napoli, buongiorno. Pronto, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Vi seguo da molti anni. Senta, volevo sapere una cosa, uscendo un po' fuori dal Covid-19, volevo sapere, io sono un tifoso della Roma, il passaggio da Pallotta al miliardario texano, che fine ha fatto? Si farà, non si farà più? Perché diciamo, per i miei tifosi penso che sia una cosa positiva, per Pallotta sia un affare da 700-800, cioè non se ne è più sentito parlare. E poi volevo fare una seconda domanda e poi la saluto e la ringrazio. Ma mi scusi, ma cosa partecipa a fare la squadra di rugby a Sei Nazioni che puntualmente prende delle batoste incredibili dalle altre cinque nazioni che sono nettamente più forti della nazione italiana? La ringrazio e attendo lì la risposta. Grazie Raffaele, questo è un domandone che siamo fatti mille volte e cui non abbiamo ancora trovato una risposta e una soluzione, magari la troveranno altri per noi. Quanto al primo punto, non ci ha ascoltati ieri, perché ieri abbiamo parlato a lungo del trasferimento o mancato trasferimento della Roma. È tutto bloccato al momento, congelato, con sensazioni negative, perché in questo momento l'offerta di Friedkin è troppo bassa rispetto a quanto spera di guadagnare Pallotta. Poi ieri, non so se tu hai sentito Giovanni, c'era Roncone che ha detto, da tifoso romanista, Pallotta gli voglio bene, ma non si faccia più vedere a Roma. Meglio se a Roma non lo vediamo da un anno e mezzo, meglio se non compare più. Sì, poi però insomma c'è anche da dire che gli si sono smaterializzati 200 milioni di euro a causa della pandemia, sì. Quindi il problema non è se sia un affare o no per Pallotta l'offerta da 700-800 milioni di euro, il problema è che l'offerta non esiste più, altrimenti Pallotta avrebbe ceduto non oggi, ma avrebbe ceduto ieri, settimana scorsa, un mese fa a Friedkin e sarebbe uscito bene dalla sua avventura nella Roma. E invece tutto è tornato in ballo, ieri c'è stata questa operazione prestito da 30 milioni di euro, segno secondo me anche che Pallotta sia un po' stufato di investire a fondo perduto nella Roma, e quindi mi sembra siano tutte manovre che portino nella direzione che in qualche modo Pallotta si disferà del club. Il problema è che oggi è difficile uscire a condizioni che siano vantaggiose. Certo, grazie Giovanni, alla prossima. Grazie a te. Grazie Giovanni Capuano, Alessandro Marco Tulli oggi in assistenza, Claudio Schiattone in redazione, Filippo Aureggio, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.